guarda giù dalla pianura, alle ciminiere, non fanno più fumo. I padroni dalla paura sono accompagnati dai carabinieri, a centinaia ne sono usciti gli operai dal loro lavoro, e hanno ingaggiato una gran battaglia. Facce nere, mani callose, sogni stemma degli operai, nelle miniere, scaviamo l'oro, nelle soffitte ci manca il pan. E fate presto, rivoluzione, che noi siamo stanchi, ma di soffrire. Avanti al popolo, alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa trionferà, evviva il socialismo e la libertà, evviva il socialismo e la libertà.